col nome tuo ti fa capire che t'ama già. Tu stai vivendo una favola, ma sul bene che fai. Mille emozioni vi sfiorano, entrano dritte nell'anima. Sembra una luce che abbaglia e va, e nel cuore regna già. I sentimenti consultano, mille domande nell'anima. Ogni sorriso ti riempie e va, e solo bene da fa. Ti ama da morire, entra dritto al cuore, quasi ad occupare tutte le emozioni. Senti c'è il sapore che da questo amore fuori e dentro di te. Ringrazio l'esistere. Ciò fa amore stasera decisa così. Ti fa morire. Chiama da morire, entra dritto al cuore. Da morire come un tatuaggio per te. Con questo amore non c'è soluzione. Il suo sapore ti fa indipendente. Ti chiama da morire, entra dritto al cuore, quasi ad occupare tutte le emozioni. Senti c'è il sapore che da questo amore fuori e dentro di te. Tu con mille carezze, o ringrazio l'esistere. Ciò fa amore stasera decisa così. Ti fa morire.